Salva Danaio di Deborah Rosciani. Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata. Oggi è venerdì, la nostra abitudine è quella di andare a curiosare fra le anticipazioni di Plus 24 del Sole 24 Ore, che sarà in edicola domani, in edicola ogni sabato. Plus pubblica, come ricorderete, i più affezionati di voi lo sapranno certamente, pubblica settimanalmente l'inserto Art Economy 24 dedicato al settore degli investimenti nel mercato dell'arte. Oggi torniamo anche noi ad occuparci di questo settore. Perché? Perché nei prossimi giorni la città di Modena sarà animata da una prestigiosissima kermesse nel settore dell'antiquariato, Modena Antiquaria, e abbiamo pensato di dare anche noi un'occhiata a questo settore per verificare che grado di interesse ci sia da parte anche del popolo dei piccoli investitori, come ci si orienta in questo mercato, come affidarsi a professionisti qualificati che ci mettano nelle condizioni di fare acquisti giusti. E poi che cosa significa mercato dell'antiquariato? Non si può dare a questo ambito una definizione semplice, secca, spesso si rischia di perdersi in fumose analisi di opere pittoriche sconosciute ai più. In occasione di Modena Antiquaria, Nomisma presenta l'edizione 2011 dell'Osservatorio sul mercato dei beni artistici, in modo da capire anche qual è il punto di vista dell'investitore, del collezionista. Ma soprattutto, appunto, come vi ribadisco, noi oggi vorremmo capire se questo settore è un settore di investimento accessibile anche a risparmiatori di medio, piccolo taglio. Allora, 800 24 00 24, se l'argomento anima la vostra curiosità, stamattina potrete confrontarvi con voi, ma soprattutto con la responsabile di questo inserto, che è la collega di Plus 24, Marilena Pirrelli. Marilena, ciao. Buongiorno agli ascoltatori. Tra l'altro sarà anche protagonista degli eventi di Modena, perché so che sei stata chiamata a moderare un po' di convegni, e quindi ci potrà dare appunto proprio anche la sensazione di prima persona rispetto a questo appuntamento. E poi il professor Guido Candela, responsabile scientifico dell'Osservatorio sul mercato dei beni artistici di Nomisma, che peraltro devo intervistare immediatamente perché poi deve lasciarci. Oggi lo abbiamo disturbato anche in una giornata piena di impegni. Professor Candela, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. E poi Giancarlo Ciaroni con noi questa mattina, direttore della galleria Altomani & Sons Milano e Pesaro. Dottor Ciaroni, buongiorno. Buongiorno a voi. E quindi il professionista che ci darà proprio, come dire, tutti i suggerimenti pratici e concreti su come orientarci bene, anche su come affidarsi magari ai professionisti, agli antiquari giusti. Allora, la borsa ve l'ho già raccontata, stamattina giornata negativa, molto rapidamente, pesa l'Egitto, pesa anche questo accordo che Nokia ha fatto con Microsoft, che non è stato particolarmente apprezzato dal mercato. Oggi tecnologia in grosso movimento su tutti i mercati. Milano perde lo 0,8%, il peggior titolo è proprio STM, -2,75, euro su dollaro a 1,3525, la peggior piazza è Parigi, perde un punto. Oggi dagli Stati Uniti molti dati economici e anche diverse trimestrali che ancora stanno continuando ad arrivare. Direi che però la borsa oggi la lasciamo rapidamente perché abbiamo molti ospiti, è un bel tema da affrontare che è talmente vasto che ci sarebbe la necessità di andare avanti per ore. Speriamo di concentrare le cose più interessanti nei 45 minuti a nostra disposizione. Parto subito con un primo input con Marilena Pirrelli. Prima di andare ad esplorare i numeri di questo mercato, Marilena, mi chiedo se è un settore che catalizza il risparmio privato delle famiglie o rimane ad appannaggio di collezionisti privati e investitori privati, le fondazioni bancarie, le banche stesse, insomma una famiglia che abbia anche una certa disponibilità economica. Si può approcciare serenamente a questo mercato a prescindere poi dal gusto e da tanti altri aspetti che hanno anche a che fare con l'estetica e con altro, ma proprio dal punto di vista del taglio medio dell'investimento, dal punto di vista economico? Certamente sì, e dei ultimi dati da IPB, dell'Associazione del Private Banking, ci dicono che la domanda di consulenza e conoscenza da parte delle famiglie cresce. Naturalmente in quei casi ci si rivolge sempre alla banca come esperto, che poi rivolge il quesito spesso a esperti indipendenti e propri consulenti. Cosa significa questo? Che da un lato le famiglie, o per eredità o appunto per piacevolezza, acquistano l'arte, anche sul trend molto forte degli ultimi anni del contemporaneo, ma soprattutto manca la conoscenza del valore dell'opera acquistata o della rivalutazione che nel frattempo può esserci stata. Quindi mancano degli strumenti tecnici, e qui il professor Candela potrà aiutarci spiegandoli, e mancano anche degli strumenti regolamentari, nel senso che è un mercato libero, è un bene di commercio, quindi di consumo come molti altri, sebbene poi sia un bene molto tutelato, per cui sì, ci sono una fiscalità simile a tanti altri prodotti, però poi c'è la notifica che in qualche modo tutela quelle opere di interesse nazionale. Quindi è un po' un cavallo zoppo per alcuni punti di vista. Quando l'opera è molto importante e quindi può rientrare nell'interesse delle soprintendenze, quest'opera viene bloccata, notificata, il che vuol dire che l'opera deve rimanere a disposizione delle sovrintendenze e non può essere esportata. Quindi se ne capisce che il valore dell'opera scende. Sappiamo bene che Londra è una delle piazze più importanti per la compravendita in asta di opere italiane moderne del Novecento. L'Italian Scene a Londra rappresentano proprio questo. Quindi in realtà l'arte italiana all'estero viene valutata, l'arte in Italia può avere dei problemi di valutazione e di scambio. Per quanto riguarda l'Old Master, che è ancora più difficile perché appunto, come diceva Deborah, l'Old Master è l'antiquariato. L'Old Master no, sono i dipinti antichi fino al fine Settecento, poi abbiamo l'Ottocento e poi entriamo negli impressionisti moderni. E ovviamente un problema legato molto all'autenticità, allo stato di conservazione e alla provenienza dell'opera. Sono aspetti molto importanti perché tante opere sono di scuola, di bottega e non strettamente dell'autore a cui si fa riferimento, per cui è fondamentale avere un rapporto di fiducia col gallerista, avere una trasparenza nell'acquisto, quindi fatture certificate e quant'altro, perché in caso di incauto acquisto, leggete, falso, piuttosto che crosta, piuttosto che opera ormai sciupata eccetera, c'è sempre appunto un diritto del consumatore di potersi rivalere. Per banalizzare molto, Marilena, non è possibile quindi da un giorno all'altro dire mi sono stufato della borsa e del mercato obbligazionario, punto all'arte, meglio prendersi un po' di tempo ed esaminare bene il mercato appunto che si cerca. Allora, professor Candela, le chiedo subito, visto che presenterete nei prossimi giorni il rapporto Nomisma 2011, quali sono i tratti più importanti di questo rapporto, le cifre più importanti che appunto metterete a disposizione della stampa e anche dei partecipanti all'evento di Modena, ma mi ha incuriosito soprattutto un aspetto. Vedo che agli addetti ai lavori non piace definire questo comparto come un settore di investimento rifugio, come per esempio una definizione che si dà a loro, ma un asset di investimento difensivo. Che differenza c'è? La definizione di un bene rifugio riguarda soltanto il rapporto tra il valore dell'asset e l'inflazione, cioè la possibilità di conservare un valore reale. E l'asset difensivo vuol dire che è in controtendenza rispetto al mercato, quindi permette di difendere il valore quando il mercato va male, ma va male dal punto di vista congiunturale, non soltanto nei confronti dei prezzi. Quindi il bene rifugio si è valutato normalmente nel lungo periodo, cioè rispetto a una tendenza di inflazione di lungo periodo, mentre l'asset difensivo nella ciclicità di breve. Allora, professore Candela, facendo riferimento anche alle altre possibili asset di investimento, settori di investimento, è possibile dire come il mercato dell'antiquariato, che deve essere considerato appunto tenendo conto di numerosi comparti, si è mosso in relazione per esempio al mercato immobiliare o in relazione alla borsa? So che nel vostro rapporto Nomisma avete preso in considerazione l'ultimo quadriennio, e perché solo questo periodo? L'ultimo quadriennio perché, proprio l'ha detto lei direttamente, cioè non basta guardare gli Old Master se vogliamo parlare di antiquariato, è necessario avere una rilevazione dettagliata dei valori che permetta di diversificare i diversi segmenti. Cioè noi abbiamo dovuto fare una rilevazione separata per quanto riguarda i dipinti, per quanto riguarda i mobili, per quanto riguarda l'oggettistica e per quanto riguarda evidentemente i maestri dell'Ottocento, che fanno un mercato a parte essi stessi. Ecco, però professor Candela, mi scusi se interrompo, esiste un indice internazionale dei prezzi dei beni artistici? Questo non raggruppa tutti i settori? Questo raggruppa anche gli errori, le differenze e confonde le differenze fra settori. Cioè uno dei risultati che viene fuori nel nostro rapporto è che se noi vogliamo tenere monitorati i rendimenti e i prezzi dell'arte, dobbiamo fare riferimento a un mercato internazionale e a un mercato italiano, e non sempre la correlazione è uno a uno, cioè si muovono nello stesso modo. E allo stesso modo all'interno del mercato italiano dobbiamo differenziare i diversi segmenti, la moderna, la contemporanea, i dipinti antichi, i dipinti dell'Ottocento, oggettistiche, mobili, non sono raggruppabili in un unico andamento. Ecco, detto questo, appunto facendo la dovuta disaggregazione come lei ci ha indicato, che cosa emerge? emerge rispetto all'andamento, non lo so, voi avete fatto anche dei grafici che ci dimostrano queste tendenze, allo Standard & Poor's 500, quindi al principale paniere della borsa americana, oppure l'andamento, visto che Nomisma è anche un osservatorio molto attento che noi invitiamo spesso per parlare del mercato immobiliare, rispetto all'andamento del mercato immobiliare, che è un asset molto privilegiato dagli investitori italiani, come è andata? Beh, direi tutte le categorie dell'arte in questo periodo, dal 2005, cioè l'ultimo periodo, vincono nei confronti della borsa, sia della borsa italiana, che va peggio di quella di New York, sia della borsa di New York, che ha rendimenti in ogni caso negativi, cioè la crisi finanziaria è stata pagata pesantemente dai valori di borsa azioni. Per quanto riguarda l'immobiliare, ecco, qui la situazione è un pochino più incerta. Certi settori vincono nel rendimento rispetto all'immobiliare, in particolare il settore del contemporaneo, su cui si sono registrati maggiori incrementi. Per quanto riguarda invece il settore dell'antico, abbiamo una caratteristica molto interessante per una certa frazione del portafoglio, cioè il mercato è un mercato maturo. Mercato maturo, che vuol dire bassi rendimenti ma anche bassissimo rischio. Ecco, quindi per questa porzione di investimento patrimoniale è estremamente interessante, perché i rendimenti non sono alti, ma nel momento in cui bisogna difendersi nei confronti di certi rischi di fluttuazioni, può funzionare molto bene. E quindi qui ritorniamo alla definizione, appunto, di bene difensivo. Esatto. E lo sono stati particolarmente dipinti, rispetto all'antiquariato, praticamente dipinti antichi e immobili. Più difficile valutare l'effetto degli oggetti, perché qui negli oggetti d'arte antica, oggetti d'epoca, l'eterogeneità è molto più forte. Ecco quello motivo per cui bisognerebbe non solo fare questa distinzione che ho fatto prima, ma anche farne ulteriori. E quindi negli oggetti a noi viene fuori che sono meno difensivi dei mobili e dei dipinti, ma forse potrebbe essere un effetto dell'eterogeneità, perché dentro gli oggetti ci sono alcuni che hanno tenuto molto bene, e lo sono anche nelle dichiarazioni degli antiquari, e quindi cui rendimenti di investimento sono buoni, che sono le sculture. Altre che sono state soggette a moda, come per esempio le ceramiche, e che l'anno scorso hanno andate bene, le previsioni sono che non confermino, e altri continuano ad andare male, che sono gli argenti. Ecco, insomma, un settore da monitorare attentamente, esattamente come si fa per tutti gli altri settori. In certi momenti, in relazione anche a determinate caratteristiche macroeconomiche, c'è un settore che può spingere di più rispetto ad un altro, per cui bisogna conoscerlo molto bene. Professor Candela, io devo salutarla, perché tra l'altro dobbiamo già andare a fare la nostra prima pausa. La ringrazio per essere stato con noi, magari coglieremo l'occasione per invitarla di nuovo e poter approfittare di lei per tutta la durata della trasmissione, però insomma le indicazioni che ci ha dato sono già molto interessanti. Grazie e buon lavoro per Modena Antiquaria. Arrivederci. Marilena, ci dobbiamo fermare, poi andremo anche alle indicazioni di Giancarlo Ciaroni, che è un gallerista, pertanto ci potrà dare davvero delle indicazioni di prima mano su come muoversi ed orientarsi in questo mercato con accuratezza, con attenzione. Tra poco. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi ci occupiamo di un settore che non capita molto di frequente ai microfoni di Salva Danaio, ma in realtà ogni tanto facciamo una puntata dedicata all'arte, all'investimento in questo settore, perché intanto vale la pena così analizzare quanto questo comparto abbia avuto più o meno una tenuta rispetto agli altri settori di investimento come le borse, il settore immobiliare, il mercato obbligazionario. Abbiamo fatto questo confronto nella prima parte di Salva Danaio. Poi ci sono tanti eventi molto interessanti. In Italia c'è Modena Antiquaria, che appunto parte sabato e per molti giorni sarà la kermesse più importante del settore, e così magari per tutti i curiosi di questo comparto, magari per chi avesse anche una certa disponibilità finanziaria, volesse diversificare, perché poi il tema è anche questo, così come per tutte le altre asset di investimento. Marilena Pirrelli, è bene non mettere tutte le uova in un unico paniere. Assolutamente, credo, sì. No? E anche nell'arte diversificare, un fondo oro può andare benissimo con un taglio di fontana. Parlavamo prima del fatto che il mercato dei privati in Italia ancora non ha un larghissimo spazio, un po' perché il taglio medio dell'acquisto è piuttosto alto, a prescindere poi dal settore che tocchiamo, i vari comparti dell'antiquariato, poi magari torneremo anche su questo aspetto, ma anche perché, e questo lo osserva anche l'osservatorio Nomisma sul mercato dei beni artistici, non ci sono dei veicoli istituzionali che favoriscono la raccolta del risparmio privato, mi pare. No, assolutamente. non esiste nel risparmio gestito dei fondi che investono in arte. In Italia non sono mai stati autorizzati dall'autorità di vigilanza della Banca d'Italia, e esistono all'estero, appunto uno ne è appena nato a San Marino, esistono in Svizzera, esistono a Londra, ma quasi sempre senza posizionati in tra virgolette paradisi fiscali, senza che l'autorità di vigilanza conosca poi il percorso del fondo, tant'è che noi tante volte chiamiamo il Fine Art Fund di Londra, che è uno dei principali fondi, che ci informa sui rendimenti seguiti agli scambi, ma se noi chiediamo che cosa avete venduto, che cosa è stato comprato e quindi quali sono i valori degli scambi, non ci dicono mai nulla. Per cui il risparmio e il collezionista, direi, se ha proprio questa necessità, ecco, deve sapere che non c'è una trasparenza di mercato, ma riteniamo comunque che l'investimento in arte debba passare da un dividendo estetico. Prima di tutto l'arte deve piacere, e poi se anche mantiene il suo valore o si rivaluta, tanto di guadagnato. Certo. Per cui come portafoglio solitamente si consiglia una quota tra il 5 e il 10 al massimo. Allora, Giancarlo Ceroni, direttore della Galleria Alto Man & Sons, ancora buongiorno. L'ho lasciata lì decantare per un po' di tempo, ma adesso andiamo subito alle domande per lei. Peraltro le anticipo già che ce ne sono anche da parte dei nostri ascoltatori. È pronto in linea Luigi da Mantova, che adesso sentiamo. Le devo raccontare una cosa che è successa ieri pomeriggio, dottor Ceroni. Lei mi ha letteralmente galvanizzato, il mio assistente Alessandro Longoni, con la storia dell'acquisto dei liuti come strumenti di investimento. Musicali, sì. Esatto. Ecco, perché insomma è un investimento di taglio ragionevole, da quello che capisco, che però conserva e anzi amplifica sensibilmente, da quello che capisco, il suo valore negli anni. Che tipo di suggerimento gli è? A lunga scadenza sicuramente, perché è un settore oggi snobbato, poco studiato, non collezionato e quindi ai minimi delle valutazioni. Uno strumento musicale buono oggi si può acquistare anche nelle aste nazionali e internazionali con 3, 4, 5, 6 mila euro. Considerandoci 1000 euro di restauro, per metterlo un po' a posto, è un oggetto che, se studiato, se pubblicato col suo tempo, i suoi modi, non può avere una rivalutazione inferiore al 100, al 200%, perché sono oggetti del Rinascimento, del periodo barocco, che hanno già una loro storia, una difficoltà di esecuzione, fanno parte del patrimonio, oltre che musicale, storico, artistico, italiano ed europeo, quindi a lunga scadenza sicuramente. Ecco, allora magari in un'altra occasione faremo una puntata solo ed esclusivamente dedicata agli strumenti musicali. Tra l'altro, mentre lei mi spiegava un po' come funziona questo comparto di tutto il mercato complessivo, mi veniva anche in mente un'altra considerazione, poi come la si conserva tutta questa merce, chiamiamola così, insomma, anche perché questo è un aspetto credo non trascurabile. Non è che un liuto io lo posso prendere e mettere in cantina piuttosto che in soffitta, dottor Ceroni. Certo, no. Intanto non sono dottore, mi sono solo Giancarlo Ceroni. Dunque, alcuni oggetti non hanno nessun bisogno di particolari difese. Pensiamo alle maioliche del Rinascimento, sono indistruttibili, sono impermeabili, ai bronzi, alle pietre dure, ai coralli. Invece, se parliamo di un dipinto su fondo oro, come ho sentito parlare prima, quindi su una tavola, ecco, la tavola soffre dei cambiamenti di umidità, quindi se mettiamo una tavola a fondo oro da 200.000 euro sopra un termosifone, c'è il rischio che l'anno dopo, quando spegniamo i trifusori, ci troviamo un mezzo quadro semidistrutto, alterato. Quindi mentre le tele hanno meno problemi, una tela del 600 non soffre più di tanto per l'alterazione, diciamo, di umidità. Quindi in un investimento di questo tipo non ci dimentichiamo e non trascuriamo poi anche l'ordinaria manutenzione, chiamiamola così. Allora, Ceroni, visto che non vuole essere chiamato dottore, c'è una domanda per lei, perché c'è qualcuno ovviamente interessato a questo segmento di investimento, e però insomma, come dire, un po' come per le altre asset class, qualche volta non ci si fida degli intermediari. Anche in questo settore immagino che i galleristi non abbiano tutti la stessa autorevolezza, la stessa serietà. Sentirei allora Luigi da Mantova. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Grazie di avermi chiamato. Grazie a lei. Ascolti, la domanda è diretta, secca e così, anche perché nasce un po' da un'esperienza non personale, ma diciamo a latere di un mio amico. Non ce la vuole raccontare? Cosa gli è successo il suo amico? Bah, ha preso un'opera che poi si è rivelata, diciamo in termini molto pratico, una bufala, ecco, con tutti i vari certificati e non certificati. Ci ha rimesso molto il suo amico Luigi? Non ci lasci così appesi, ci faccia sapere. No, no, no, non ci ha rimesso molto. Comunque sa, ci si rimette un po' la faccia, la credibilità in se stessi, perché dice, vabbè, mi sono un po' documentato, ho cercato di incanalarmi anche perché mi piace, e poi dopo prenderla non è certamente una cosa simpatica. E infatti, e allora quindi il tema è la serietà del gallerista, Luigi? Sì, gallerista, del venditore, sì, del gallerista, diciamo, sì. Allora. Ciaroni, dobbiamo fare una puntata a parte solo su questo? No, brevemente. Il gallerista in oggetto era iscritto all'Associazione Antiquari d'Italia? Prima domanda. Seconda domanda. Le ha rilasciato al momento dell'acquisto una regolare fattura con fotografia autenticata con la dichiarazione di quello che stava vendendo? Adesso guardi, tra l'altro Luigi stava parlando di un suo amico, ammettendo però che ci rivolgiamo a lui, appunto le domande che bisogna farsi sono queste: intanto l'iscrizione del gallerista all'elenco professionale all'Associazione Antiquari d'Italia, benissimo, no? Poi il rilascio della fattura con la foto autenticata dell'oggetto, con la dichiarazione di quello che è, ed eventualmente accompagnata da uno studio storico-artistico dello specialista di quel pittore. Perché se parliamo di Guido Reni di Bologna, ci deve essere, che so, da professor Benati a Dennis Maun prima, a Andrea Emiliani, cioè ci deve essere professor Mazza, ci deve essere uno storico dell'arte che ha scritto su quel pittore, tanto in Francia, che so, i Royo, quindi ognuno ha scritto su quel pittore, Sassoferrato, chi ha scritto il professor Lepini, il professor Massimo Pulini, quindi io compro Sassoferrato, voglio l'autentica scritta che si riferisce al mio quadro, al mio dipinto, dove lo storico dice ho visto il dipinto, non dice gentile signore, ho visto il dipinto, centimetri tot per centimetri tot, raffigurante questo, e lo dichiaro autentico e non solo. Ma io chiedo sempre, alla fine dello studio, di scrivere verrà pubblicato nel mio prossimo aggiornamento sul pittore. Questo dà una garanzia all'acquirente che se il signore aggiorna la monografia su Sassoferrato e non aggiunge quest'opera, nel momento che l'ha dichiarato che l'avrebbe fatto, è un segnale che ci deve dare qualche dubbio, un segnale, ecco. Ecco, la seconda cosa, la fattura dell'antiquario. La fattura dell'antiquario, se è iscritto all'albo, è perseguibile penalmente per sempre. Quindi se un antiquario che ha un pezzo di casa, che ha una macchina, che ha da perdere, che ha un negozio, gli si pignora il negozio. Ma se non si ha la fattura perché si crede di aver fatto l'affare, perché lui non ha capito cos'era e si è sottofatturato l'oggetto, valeva 100, l'avete pagato 30 perché lui ha bisogno, perché lui è un amico, perché qua e che là, poi quando si va a vendere si rende conto che le cose non stanno proprio così. Benissimo. Però contrariamente a quello che ha detto il dottor Candela prima, io le posso dimostrare che negli ultimi 2 anni, non 20 anni, negli ultimi 2 anni i risultati delle maioliche rinascimentali che lui citava in calo sono triplicati. Abbiamo avuto risultati da 1 milione, 1 milione e 2, 800, 600. Un piatto era esposto a Modena Antiquaria l'anno scorso a 200.000 euro, ha raggiunto 4,30, adesso a dicembre, 3 mesi fa. Quindi voglio dire, non è tutto. No, tra così. L'altro mi sta facendo anche delle cifre interessanti. Ciaroni, chi sono i clienti della sua galleria? Possono orientarsi in questo mercato anche dei risparmiatori di piccolo taglio? Io sempre ritorno perché sono un po' il riferimento della nostra trasmissione. E che cosa cercano in questo momento, oltre alle maioliche che lei ha citato? Io ho anche un fruttivendolo che riesce a mettere a parte i 20-30 mila euro all'anno. Un trasportatore che riesce a mettere a parte 50-60 mila all'anno, e la metà di questi soldi li destina a un oggetto che a lui piace, eccetera, con le garanzie, con le fotografie, con la supervisione a volte del suo consulente di fiducia, perché non bisogna camminare da soli in questo mondo così difficile, bisogna scegliersi una persona di riferimento col quale dire io ti riconoscerò una provisione, un disturbo, tu bisogna che mi analizzi questo oggetto prima dell'acquisto, se non si conosce bene l'interlocutore o il gallerista. Mai fare tutto da soli, far da te non è che sia il male. Lo so, infatti il tema è proprio individuare la persona giusta, perché poi appunto qualche volta ci si sbaglia, anche l'istinto ci dà delle indicazioni sbagliate, e però daremo poi anche ulteriori indicazioni su questo, proprio come individuare il professionista corretto. Ma l'iscrizione a cosiddetto, non è l'albo professionale, non mi ricordo ancora come si chiama, Caironi, l'elenco. Associazione Antiquari d'Italia. Perfetto, quindi basta avere quel punto di partenza lì, che mi sembra già sufficiente. Allora, 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi. C'è poi Marco da Ferrara, c'è il tema anche dei sospetti che si tratti quando si fa compravendita in questo settore, Marilena, di oggetti rubati. Vediamo anche lì poi come si può fare il controllo. A tra poco. Allora, andiamo a Marco da Ferrara, poi anche perché si lega la domanda dell'ascoltatore di Ferrara al tema degli oggetti rubati e del sospetto che quantomeno si possano acquistare anche questi. Marco, buongiorno. Buongiorno. Il mio caso non è di oggetti rubati. In pratica io ho comperato 40 opere di un pittore, Franco Angeli. Per quanto riguarda, è stato a Natale 2008. E con le autentiche della Magi Arte, che era l'archivio che curava addirittura il catalogo generale delle opere, le opere ora sono sotto sequestro perché non risultano rubate, però potrebbero essere false. Io è un anno e mezzo che cerco di sapere tramite l'avvocato a che punto sono le indagini, visto che ho fatto perizie, sono venuti i periti da Roma per visionare le opere, non ho modo di sapere nulla. E le opere oltretutto dovevano venire pubblicate tutte 40 sul catalogo generale, certo, che era prossimo alla pubblicazione. Quindi tutte le indicazioni date da Ceroni poco fa lei le aveva seguite alla lettera. Marco, non mi sembra una persona sprovveduta. Tra l'altro, mentre ce la raccontava la sua vicenda, Marco, Marilena Pirelli annuiva, quindi la conosci. Chi è questo pittore? Cosa è successo? Ce ne siamo occupati anche noi, più o meno appunto in quella data, fino a 2008 se non ricordo male, quando la Magi Arte, alla Magi Arte si sono state sequestrate tutte le opere, proprio perché questo catalogo viene considerato come un grande falso. Franco Angeli è uno degli artisti più falsificati, e tutto è stato rimesso nelle mani degli eredi di Franco Angeli. Ora l'ascoltatore ci dà uno spunto per un'inchiesta. Sicuramente cercheremo nelle prossime appuntamenti con Art Economy di capire a che punto chi è tutti questo. Gli oggetti comprati, esatto, sequestrati e a che punto siamo. E se con si può la... rivalere con qualcuno, ovviamente. Esattamente, anche... a che punto siamo con la possibilità poi di chiedere risarcimento, certo, e quant'altro. Quindi Marco, tenga sotto controllo Art Economy, che scateniamo Marilena, sicuramente ne verremo a capo. Giorgio da Milano, buongiorno. Famiglia di collezionisti la sua. Sì, buongiorno. Senta, qui dovrei dire alcune cose. Prima cosa, quando si tratta soprattutto fra privati o anche a volte fra commercianti, bisogna lasciare, basta vedere il codice penale, una liberatoria dicendo e garantendo che l'oggetto, quadro, orologio, quel che sia, sia di provenienza, si sa di dove è la provenienza e non sia di provenienza furtiva. Secondo, bisognerebbe che chi le piace collezionare qualsiasi cosa, i francobolli si sono rigommati, le monete si sono rimesse a posto, eccetera eccetera, e poi bisogna comprare anche i falsi per un vero collezionista. Perché sennò non può capire l'autentico e il falso, conoscere la storia, come sono stati fatti. Questo è un aspetto interessante, Giorgio. Guardi, io la saluto perché sono arrivati anche altri ascoltatori, però quest'ultimo aspetto mi interesserebbe affrontarlo con Ceroni. Cioè, bisogna avere anche un mercato parallelo di riferimento, un falso accanto al vero per poter valorizzare ancora di più. Ceroni? Bisognerebbe conoscere il grande falsario per capire come ragiona, ma il falsario si tradisce sempre, perché il falsario è un uomo del 2000, alla testa del 2000, può falsificare bene un'opera degli anni del Novecento, non può falsificare un'opera del 300, perché da qualche parte si cascherebbe, la sua cultura attuale verrebbe fuori. E comunque, torniamo sempre al discorso iniziale, se io ho una fattura in mano sono garantito, se ho la fattura ho la buona fede e ho la possibilità di rivalermi. Cosa diversa è se si incappa nelle case d'asta che in qualità di intermediari loro non garantiscono a lungo andare. Ho capito. Allora, Marilena, Gio da Brescia chiede: chi garantisce che non si tratti di oggetti rubati? Qua i carabinieri ci possono dare una mano. Sì, esattamente. Prima dell'acquisto c'è stato un caso a Milano abbastanza importante su un Kandinsky. Ebbene, soprattutto sugli oggetti d'epoca, ma anche sugli oggetti moderni, i falsi, appunto, come dice il signor Ceroni, ci sono appunto anche sul Novecento e quant'altro. Mettersi in contatto con i carabinieri, il corpo della tutela al patrimonio artistico. Loro hanno sul loro sito TPC un archivio pubblico e navigabile nel quale si possono individuare le opere rubate e quindi che possono essere poi state rivendute e quindi riciclate. E in ogni caso l'acquirente deve sempre informarsi su quello che, se vogliamo, è anche il mercato del falso dell'autore, proprio perché sappiamo perfettamente che Miro Kandinsky, e sto parlando di artisti importantissimi, negli ultimi anni da lì sono stati falsificati tantissimo, proprio perché è un mercato che, non avendo alle spalle spesso competenze, entra senza una, un controllo e una garanzia. Per cui è anche possibile sottoporre ai carabinieri l'ipotesi di acquisto e quindi comunicare con loro che cosa si vuole acquistare, e loro potranno, è sempre gratuito il servizio, potranno rispondervi e dirvi se quella opera può avere dei dubbi o meno. Allora, io sono stupefatta dagli ascoltatori che prima ascoltano la trasmissione, dopodiché si scatenano con le domande più interessanti. Io vorrei sentirli tutti, speriamo di potercela fare, ci rimangono pochi minuti di tempo. Gianni da Cuneo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Io chiamo per questo. Un mio parente mi ha lasciato un delle anni, 1800 rotti 1900 quando è morto. E non c'ho la data precisa perché sono in macchina purtroppo per lavoro e non c'ho i dati. E volevo sapere questo. Dato che questo quadro non è firmato, come si fa per avere una certezza che è un delle anni e farlo autenticare? Ceroni, faccio venire da lei Gianni da Cuneo. È semplice, basta guardare la monografia di Belleani, chi ha scritto su Belleani, inviargli una foto con le misure e lui confermerà se si tratta del pittore oppure no in oggetto. Ecco, chi ha curato la monografia o lo studio su quel pittore. Benissimo, quindi dire. Gianni, guardi, se poi vuole per iscritto queste indicazioni ci scriva e le metteremo appunto due indicazioni un po' più precise. Sento anche Paolo da Modena, buongiorno Paolo, ti va a fare un giro in fiera in questi giorni? Buongiorno. Prego, non ho capito. Si va a fare un giro in fiera in questi giorni, visto che c'è Modena Antiquaria? No, a volte ho perso la fiducia nelle fiere. Ah, ecco, bella pure questa. Io volevo fare una domanda a proposito delle grandi case d'asta internazionali. E mi stavo chiedendo che grado di affidabilità in merito all'autenticità possono dare queste case e che tipi, se invece vi fossero, di controlli effettivamente fanno sulle opere che entrano. Parlo esclusivamente delle grandi case, non di case d'asta. Quindi Sotheby's piuttosto che Christie's. Ecco, tra l'altro ieri Christie's ha avuto un'asta record con, titola oggi La Stampa, nababbi cinesi e filippini. Detto questo, in 40 secondi, Marilena, sul dubbio che ha sul funzionamento delle aste di Paolo. Allora, brevemente, con gli anni sono migliorate le cose. In ogni caso l'intermediario non risponde davanti a un giudice dell'opera falsa o trafugata, per cui comunque si dovrà andare all'avvocato, dall'avvocato, e poi chiedere dal venditore un risarcimento o quant'altro. Quindi l'intermediario si sfila in qualche modo. Beh, c'è da dire che sempre più frequentemente con queste grandi case d'asta si può essere tranquilli, nel senso che è loro disinteresse che questo accada, per cui non frequentemente, anche se in Germania su una casa d'asta è passata una collezione rubata tempo fa, cioè possono accadere queste cose. Naturalmente più la casa d'asta è meno qualificata, ha meno scambi, certo, e più c'è il rischio. Credo che le più grandi abbiano anche un sistema assicurativo che in qualche maniera le protegga da tutte queste vicende. Ma loro non rispondono. Non ne rispondono, no. Però, quindi, esatto, l'abbiamo detto anche prima peraltro. Ci dobbiamo fermare alla nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Stiamo andando avanti alla nostra rubrica previdenziale per spiegarvi appunto le parole della previdenza in collaborazione con l'INPS. Oggi parliamo di permessi di lavoro per chi assiste minori con gravi disabilità. La legge 183 del 4 novembre 2010 ha introdotto la possibilità di utilizzare i 3 giorni di permesso mensili previsti dalla legge 104 del 1992 per l'assistenza a persone con grave disabilità anche per i parenti e gli affini dei minori di 3 anni in situazione di disabilità grave, beneficio in precedenza previsto soltanto al compimento del 3° anno di età del disabile. I genitori anche adottivi di figli con disabilità grave, tenuto conto del diverso ruolo che essi esercitano sul bambino rispetto agli altri familiari, possono fruire alternativamente dei permessi, sempre nel limite di 3 giorni per ogni disabile. Di norma, invece, secondo il concetto di esclusività dell'assistenza, i permessi possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona e non possono invece essere utilizzati alternativamente da più beneficiari. E insomma, sarà ancora d'appannaggio di pochi piccoli investitori, ma ho visto che sono arrivate delle belle domande interessanti e quindi insomma i nostri ascoltatori non terminano mai di stupirci. Grazie a Marilena Pirrelli e Giancarlo Ciaroni per essere stati con noi. Ripeteremo magari più avanti un'altra puntata su questo tema. Intanto a voi tutti da Deborah Rosciani, buon fine settimana.